lato scuro. Io non avevo letto, ma il tuo biglietto infilano nel culo. Io fra, non ho la cresta da punk, trendy Cici Man. Ho un'attitudine funk, più di un New Yorican. Le scarpe bianche, firme di Tommy sulle mutande. La V-Rex in vera pelle col logo gigante. Entro al tuo bar e bevo, vestito in modo sceno. Tu non guardarmi o sei morto, pronto al tuo crisantemo. Nel mio quartiere glamour, sto alla finestra e cremo. Vedo rampantici così per Regine Lemon. Faccia da scemo e scarpe da velista. Un nuovo economista, brinda con finta l'indevangelista. Ad un gay stilista, pista, metto l'Air Max al piede. Scendo sotto rigo, l'acqua fottuta Mercedes. Poi salgo sopra quella di Vincenzo. Pompiamo i base, d'inverno North Face. D'estate a wife, fanculo a Kenzo. Smanicato come Lorenzo Lamas, fatto dai fumi dell'assenzio. Sputo nel tuo pate de foie gras. Caro Rodolfo Valentino, sei addosso un moschino. O sei uno stronzo e la merda vicino. Mi sa al primo, compri a tua moglie un vestito la settimana. Siete Dolce Gabbana, Alce puttana. Lasci la grana nei trend, spingi da solo la Benz. Mentre tua moglie prende il bus, quello delle gangbang. Con le copend di Milano spingiamo soprano slang. Zero roba boy band, vestiti con Helmut Lang. Io indosso jeans, Mac e nel weekend in discoteca. Entro con in mano una Heineken. Fanculo la tua dieta d'atleta. Ho una scritta e con rinoceronte sul torace. Quindi non entri in una camicia di Gianni Versace. Tipo quelle con accessori, oro zecchino. Che faresti meglio a dargli fuoco con un accendino. Quando spiro sul beat, butta in aria le mani. Il mio staff ha più stoffa di Armani. Taglia forte, porta forte, stile fair. Scendo dal cavallino polo, vi prendo ammazzate. Coglioni, milioni spesi per braghe strappate, griffate. O sporche di biancone tipo pezzate. Cavalli jeans per le tipe da cavalcate. Selezionami sto cazzo all'ingresso. Vestito troppo fresco, non sono il fascio. Vittima fashion, flasho. Quando scrivo più righe che nei maglioni missoni. Ho in missioni di impizzoni al cesso. E se vesti spesso, abiti Gucci, sicuro che pucci. Ma se pensi che sia un must casucci, allora resta a casa fra. Andiamo da Fiorucci, sì ma non per i vestiti. Rompiamo il cazzo alle commesse come per pervertiti. Io preferisco coprirmi con Mari Tejibo, che svolto da un paio di amici senegalesi in centro. Abbigliamento tutt'altro che freak, mentre tu ti vesti con i pantazampa 60 come Dick Dick. Alla boutique chic, Don Kick con scarpe d'ada. Agli MC faccio in faccia una striscia rossa Prada. Come il guardaroba finto no global di Giovanotti. Strada piazza di Lotti, stand di moda rubata. Balordi rompono per il taccheggio, come se strillano come tacchini, bella Sergio. Metto la costa e tarocca e quanto mi costa. Footlocker la sera tardi, gessati trussardi per truffarti a poker. In strada nascono mode raffinate tipo guanti di Prada per dare schiaffi sulle gote. Ah, fashion vittime idiote, vestiti donna Karan o riciclati dal mercato come le New Balance. Occhiali retro, madre perla bianca. Nascondi occhiaie della bamba, sfondi il tuo conto in banca. Io mi faccio l'anca con tutte di carcani che pisciano addosso al tuo abito di Armani. Quando spiro sul beat, butta in aria le mani. Il mio staff ha più stoffa di Armani. Taglia forte, pretta forte, stile fair. Ultimo verso replay, del resto ancora coi miei. Siamo versus fashion, ultimo round del palinsesto calpesto. Orrendi tre giovanili con un caterpillar. Se al Motorola che ti squilla con una hit di spillar. Ficcanti global e centri sociali oramai. Vestono soprani, Luciano a Milano. Fingono street life, su di un paio di occhi puoi vederne il riflesso di quando appoggiano le forze sulla tazza del cesso. Per chi vieta l'ingresso, io sono l'uomo sbagliato. Indosso sperso, tutte di triacetato. A disagio facce di merda, stile razze gun. Mix di Batman, indossa Max pure col cardigan. Vesto by American come un paninaro. Ma non mi inconcio da cicci come i Duran Duran. Spingo fette bull rock prese dai Parisian. Dogo club, anti-pop, hooligan. Calci nel culo con un paio di Vans. Ma se ti metti una camicia in Saint Laurent, poi becchi la Vans da un trans. Ne vedo pacchi in giro in fila fuori dai locali. Facce da babbi dietro un paio di occhiali scuri tutti uguali. Ai polsi collare e bracciali. E un improbabile inglese nei loro discorsi d'affari. Io sto sulla pelle, pelle, belle modelle finché notte muoia. Malizia da intimissimi, intimi tre è un'altra storia. Mi sciolgo tipo iceberg dalla gioia. Se nei momenti di gloria scopro i segreti di vittoria. Mega scritte, zero no logo. Trendy macchia di sugo, rap boss come Hugo. Pogo da una violenta spinta a una vintage PR. La strofa schizza su stoffa Gianfranco Ferre. Rap gap di vario anche se rimo sul vestiario. Borsalino per il borsellino deleterio. Quando spiro sul beat, butta in aria le mani. Il mio staff ha più stoffa di Armani. Taglia forte, prenda forte, stile fair. Quando spiro sul beat, butta in aria le mani. Il mio staff ha più stoffa di Armani. Taglia forte, prenda forte, stile fair.